veloce del vento, papi, e non ritorni più. Chissà perché brevissima sei tu, in cambio del dolor che lasci in me, deliziosa, vaporosa, un giorno tu, mascherata di visione blu, di sogni, di amor, di baci, di fior, arrivi tu dolcemente a ingannar, a frustare in cuor. Ma perché, se tu fai soffrire, chissà perché, perché ti cerco ancora, perché felicità. Passi e non ritorni più, chissà perché brevissima sei tu, in cambio del dolor che lasci in me, felicità perché non torni.